Incontri di Gianfranco Fabi. It's a beautiful day. Sky falls, you feel like it's a beautiful day. To let it get away on the road. But you got no destination in the mind. In the maze of imagination, your love is. Un giorno meraviglioso, speriamo sia stato per voi e per tutti, speriamo che di giorni meravigliosi sia piena la nostra vita. Buongiorno a quanti ci ascoltano e buonasera a Luca Frigerio. Buonasera a tutti voi, grazie di Luca Frigerio invitato. È amministratore del Casinò di Saint Vincent. E qui cosa vuol dire il Casinò di Saint Vincent? La casa da gioco, l'albergo, i ristoranti, gli intrattenimenti? Ormai sono tante cose, tanti... Con tanti dipendenti, peraltro. Sì, siamo circa 800 persone, più esternalizzati facciamo un migliaio. Quindi la maggiore impresa della Val d'Aosta. In termini di dipendenti, assolutamente sì. C'è poi la grande azienda che produce energia, che fa fatturati più grossi, ma ha un numero di dipendenti inferiore. Ecco, come si diventa amministratore di un casinò? Qual è la sua carriera professionale? Ma io, come tutti, ho fatto il liceo, poi mi sono inerpicato nell'università, a metà mi sono annoiato terribilmente. Che università era? Era l'università di economia e commercio, ai tempi d'oro, la facevo a Pavia. Adesso mi cafo anche un po' di questa cosa, che mi sono detto un giorno basta, non fa per me. E poi ho fatto diverse cose, ho lavorato in banca, ho lavorato per un'agenzia d'aste, e poi un giorno sono figlio d'arte. Io, mio bisnonno lavorava al Casino dei Campioni, mio nonno anche... E mio padre pure, e io quindi sono entrato. Ha imparato il mestiere di famiglia, è entrato a casa di campione. Sì, sì, ma l'idea è stata: vieni a lavorare, ci devi dare una mano a lavorare sul personale. Però una volta si faceva così, prima si andava ai tavoli, no? Un po' come un piccolino rispetto a come facevano le grandi famiglie industriali che mandavano i loro figli in catena di montaggio. Certo. E io sono stato spedito ai tavoli, è stata un'esperienza fantastica. Ha anche... fatto il croupier? Sì, il croupier. Ho imparato la roulette francese, che è il gioco più difficile, il gioco più complesso. Ma sembra una cosa semplicissima fare il croupier. Non è semplice, non è... neanche così complicato, ci vuole però la giusta, non tutti possono farlo, non è un lavoro complicatissimo, però bisogna avere l'attitudine giusta per fare questo tipo di lavoro. I primi anni è molto divertente, molto affascinante, poi col tempo diventa un po' una routine e allora bisogna avere anche il carattere giusto. Qual è il personaggio più curioso che le è capitato di incrociare al tavolo della roulette? Ah, potrei fare una lista incredibile. La roulette è un po'... La roulette o i casinò sono un po' come le caserme, c'è di tutto, no? Quando si andava in caserma ci si rasava la testa e si entrava lì. I casinò sono uguali, grandi imprenditori, persone normali, commercianti, commercialisti e poi personaggi anche un pochino particolari che ci frequentano. Sì. Ecco, i casinò in Italia ce ne sono quattro: Sanremo, Saint Vincent, Campione e Venezia. È giusto che ce ne siano solo quattro, in altri paesi ce ne sono molti di più. Ma io direi assolutamente no. Il problema dello sviluppo, per tornare un po' sul serio, no, della questione casinò, è che l'Italia ha sempre avuto dei grossi problemi legati alla criminalità in generale, e quindi posizionare dei casinò in alcune aree della nostra nazione è molto complicato. Purtroppo si è fatto di peggio, perché da un lato non si sono create strutture adeguate come i casinò, però poi all'inizio del 2000 si è aperto in maniera indiscriminata quello che oggi è il proliferare del gioco d'azzardo di Stato. Bisognava fare un percorso diverso, anche perché il gioco d'azzardo è una cosa seria e va gestito con delle leggi adeguate. In Italia cosa si è fatto? Si è aperto il gioco d'azzardo, ma non si sono pensati a quelli che erano poi gli effetti collaterali, non si è cercato di pensare alla pubblicità, come poteva essere gestita, alla ludopatia, alla microcriminalità, alla microusura, che sono i problemi difficili da gestire. Quindi era meglio sviluppare, come noi abbiamo sempre detto, i casinò non si sono mai fermamente opposti, a parte negli anni 70-80, quando l'oligopolio era forte, di fare una legislazione adeguata sullo stile, per esempio, di quella tedesca o di quella olandese, molto attenta, studiata bene nei minimi dettagli, e in alcune aree italiane era possibile aprire case da gioco. mi sento di dire che in altre è molto Un po' più difficile, rischioso, diciamo. rischiosa, sì. Ecco, perché un casinò comunque deve controllare i propri clienti, deve schedarli in pratica, deve avere i loro nomi al di là delle leggi sulla privacy, mentre chiunque può entrare in un bar e giocare alle slot machine. Sì, i casinò da luoghi di perdizione, malvisti da tutti, sono diventati oggi, mi fa un po' sorridere a me questa cosa perché sono 20 anni che faccio questo lavoro, sono diventati un luogo, un esempio, no? E nei casinò però, in effetti sì, attraverso soprattutto la legge 231 del 2007, che è la legge sull'antiriciclaggio che ha recepito la direttiva europea, noi abbiamo dovuto fare delle cose che già facevamo, ma farle in maniera strutturata, quindi registrare il nome e il cognome di chi entra, registrarci il documento e poi rispettare le norme valutarie. Devo dire che questa è molto, il riciclaggio nei casinò non è che sia una roba, ormai solo i polli ci provano, perché Ci non è, sono altri modi, ci sono insomma. modi sicuramente più facili, Come sì. stanno andando? Come va il business delle case da Ma gioco? il business, se si guarda, perché anche lì bisogna. Nel passato c'erano solo i casinò, quattro casinò, poi è arrivato lo Stato che ha incominciato a fare molta concorrenza, soprattutto sul gioco di massa, no? Col Per cui bingo. il bingo, poi le slot nei bar sono state la cosa più pesante. E poi sono arrivate queste normative che hanno fatto scappare i nostri clienti, soprattutto all'estero. Questa è una cosa un po' poco intelligente fatta da noi, nel senso che i clienti italiani di un certo livello spesso tendono a scappare all'estero, ma anche semplicemente per non farsi Cioè, vedere, non magari farsi solo andando riconoscere. da Campione a Lugano o a Mendrisio. Sì, succede, oppure andando a Monte Carlo, oppure quelli proprio che non vogliono farsi vedere partono per Las Vegas, no? E quindi c'è questo problema. E poi, vabbè, come tutti, subiamo la crisi economica, la crisi di liquidità. E quindi negli ultimi anni i nostri business si sono contratti. Però se si guarda a livello europeo, le case da gioco italiane sono ancora tutte nei primi 15. Nei primi 15 posti le case da gioco Italiani, sì. italiane sono ancora presenti. Ma c'è stato anche un ricambio, nel senso meno italiani, più stranieri? No, purtroppo il 93-95% della clientela di case italiane è italiana. Noi abbiamo completamente cambiato pelle anche rispetto alla filosofia europea. Abbiamo creato un grande resort, quindi abbiamo messo due hotel, uno 5 stelle lusso. Voi San Vincent. Sì. Un grande centro congressi, abbiamo diversi ristoranti, puntiamo molto sul benessere, sulla montagna e insieme a questo abbiamo anche la casa da gioco. Quanto cosa nell'insieme del fatturato, com'è divisa Beh, la. ancora oggi siamo all'incirca 75-80 milioni il casinò e 5-6 milioni la parte alberghiera, però è aumentato Sta molto, sta aumentando. aumentando, il nostro obiettivo è arrivare a meno 8-10 milioni di fatturato dalla parte alberghiera. Questo cosa ci consente? Ci consente di aprirci al mondo e di conseguenza di internazionalizzare la nostra clientela. Abbiamo aperto dei contatti molto importanti con l'Oriente, soprattutto la Cina. Perché amano l'Italia, amano i nostri vini, amano fare shopping, ma amano tantissimo anche giocare. Ecco, vediamo magari nella seconda parte cosa vuol dire andare in Cina con le case da gioco. Però io vorrei concludere questa prima parte ricordando appunto che Saint Vincent è di proprietà comunque della regione Val d'Aosta. È un azionista ingombrante o è un azionista che vi favorisce? Ma tutte le case da gioco italiane sono di proprietà pubblica. Questo è per una questione che riguarda l'autorizzazione a gestire il gioco d'azzardo. Dagli anni 80, se mi sa, è stato l'ultimo nel 93, tutte le case da gioco, anche la gestione poi è stata passata al pubblico perché c'erano stati dei problemi. Il pubblico è come. Dipende chi è il politico. Ecco, ci sono momenti assolutamente di grande lavoro, momenti difficili dove magari la politica ha meno forza, quindi c'è più Anche confusione. perché magari cambiano anche gli amministratori pubblici, una persona deve entrare un po' nella. Beh, noi siamo passati da una situazione molto stabile, dove la maggioranza era forte, quindi abbiamo fatto delle cose fatte bene, un piano di sviluppo gigantesco investito, a una situazione oggi di 18 in maggioranza, 15 più 2 in minoranza. Quindi puoi immaginare lei Beh, non parliamo di politica. Incontri. Take me to that other place. Ancora con il Beautiful Day degli U2. Riprendiamo l'incontro di questa sera con Luca Frigerio, mistore unico del Casino di San Vincent. Abbiamo parlato nella prima parte dell'attività, un'attività molto particolare nell'ambito della casa da gioco, dei quattro casinò italiani. Sanremo, oltre a San Vincent, appunto, c'è Sanremo, c'è Campione, c'è Venezia. Abbiamo parlato di questa attività, ma non ci siamo fermati a dire perché Beautiful Day, perché gli U2, perché gli piacciono questa musica così dirompente, così sembra quasi tanta voglia di fare. Perché sì, perché la mattina uno dovrebbe svegliarsi e mentre fa la barba o beve il caffè dovrebbe ascoltare questa canzone. Ogni giorno è bello prescindere, no? E quindi ci si carica con la musica. E poi anche ha un significato un po' nascosto nelle parole. Significa che anche se uno rimane senza niente, anzi forse è meglio, perché capisce che bisogna ricominciare. Bisogna ricominciare, sì. Sempre qualcosa di nuovo che si può fare. Sì, un'altra canzone, quando mi avete chiesto, che mi piace moltissimo, è che ha un grande valore, è quella di appunto scritta dai Simple Minds per Nelson Mandela, no? Nelson Mandela diceva sempre: non importa quante volte cadi, l'importante è che ti rialzi sempre e continui a fare le cose. Però, una casa da gioco siamo in un'attività abbastanza tradizionale, abbastanza scontata. Cosa c'è sempre di nuovo che si può fare in questo ambito? Non è così vero, perché dal punto di vista del gioco ci sono delle mode, i giochi nuovi, si inventano delle varianti, e poi soprattutto bisogna calcolare che oggi il 50% del fatturato le case da gioco le fanno le macchine elettromeccaniche, che sono degli strumenti informatici di altissimo livello, dietro ai quali ci sta uno studio incredibile a livello di software, di volatilità del gioco, di vincite e di perdite, per far divertire il cliente, la musica, le immagini, e di conseguenza è un lavoro difficilissimo. È un po' come... C'è molta innovazione, in fondo. Sì, tantissimo. C'è la tradizionale roulette, però c'è sempre. Beh, quella attira sempre i grandi clienti più facoltosi, perché è il gioco che dà più emozione, il gioco classico piace molto agli europei. C'è un altro gioco ultimamente che sta superando la roulette, che è il gioco del punte banco o baccarat, che è praticamente lo stesso gioco chiamato in diversi modi negli Stati Uniti o da noi o Macao, perché è il gioco che amano i clienti orientali, che oggi sono i numeri uno. Ecco, mi parlava prima della Cina, la Cina come prospettiva, ma cosa vuol creare una casa da gioco di San Vincent in una provincia cinese? No, quello è vietato, non si può neanche parlare in Cina di gioco. Quindi quando si va a discutere di gioco bisogna fare molta attenzione, ci sono delle regole. Noi abbiamo pensato a questo, abbiamo creato questa grande struttura, un hotel 5 stelle, fra l'altro affiliato alla Leading Hotels of the World, il primo in Val d'Aosta, è una cosa molto importante. E questo nuovo, è il nuovo casino, abbiamo completamente rifatto tutto per poter accogliere questo tipo di clientela. Loro hanno un modo di giocare che sembra gli italiani negli anni 70-80, c'è grande crescita dell'economia, grande voglia di uscire, grande euforia, e affrontano il gioco come tante altre cose, come lo shopping, come il business, in maniera molto più forte, in maniera molto aggressiva. E poi i numeri sono giganteschi, ormai Macao ha superato Las Vegas per comprendere il fenomeno, quindi abbiamo approcciato delle agenzie che, oltre che facilitare gli spostamenti della clientela cinese, coreana, Singapore, malese nei casinò di Macao, la portano anche all'estero, perché oggi c'è una grande curiosità e voglia anche di viaggiare. Quindi abbiamo proposto noi il Saint Vincent come location europea, sono venuti più volte a vedere, hanno visto che insomma solo il casinò non sarebbe bastato, abbiamo dovuto vendere un territorio che è molto bello, le montagne, certo. Ma poi soprattutto vendere l'Italia, lo shopping. E abbiamo degli accordi con le squadre di calcio per andare a vedere le partite più importanti. Sono molto curiosi, sono persone che si stanno evolvendo molto anche al di fuori dei loro confini, amano le cose belle, le cose importanti, ma soprattutto le cose speciali. Cioè, quindi cercate di vendere un pacchetto Italia, sì. Anche in prospettiva dell'Expo 2015, dove verranno molti dall'estero, si spera almeno, e quindi cercare di farli dirottare in qualche modo. Ma assolutamente, noi, la Regione Autonoma Valle d'Aosta sarà presente a Expo, prenderà gli spazi del padiglione, ma per quello che riguarda noi è esattamente il contrario, noi vogliamo portarli in valle, e sicuramente questo tipo di clientela è invogliata a frequentarci per tutti i motivi che ho detto prima: il gioco, lo shopping, e le cose speciali, particolari che possiamo. Per fare questo abbiamo dovuto elevare i servizi in modo molto importante, selezionare gli elicotteri giusti per il trasporto della clientela, non vanno in autobus per capirsi, certo. E tutte queste cose che aiutano a rendere speciale la loro visita. Quindi ecco, collocandosi nell'area del lusso, l'area della domanda di lusso, che è la domanda che in questa fase è abbastanza in crescita, anche perché purtroppo aumentano anche le disuguaglianze, però i ricchi ci sono, i ricchi spendono più dei poveri. Beh, sicuramente questo dalle nostre latitudini è una forbice che si sta ampliando. Sulla Cina non è proprio così. La Cina se si guardano i numeri, ha una crescita demografica accompagnata da una crescita economica importante a tutti i settori. Quindi, e poi c'è, purtroppo è brutto da dire, ma i poveri siamo diventati noi, perché quando si viaggia e si confronta e si discute di business in questi mondi, ci si capisce che noi, come quando noi andavamo in Africa negli anni 80, no? Adesso noi andiamo lì e loro ci trattano, è bello, si viene per fare turismo, siete interessanti, avete dei bei marchi, amano molto il Made in Italy, sono molto affascinati da questo, però i loro numeri, il loro potenziale è gigantesco. Un cliente normale da loro per noi è un grandissimo cliente, per capirsi. Ecco. Ecco, ma la Val d'Aosta come marchio riesce a far parte del Made in Italy, riesce a imporsi anche come elemento d'immagine? Ma io lavoro, perché io vivo a Lugano in Svizzera da 5 anni e mezzo, non ho ancora ben focalizzato questo aspetto, se alla Val d'Aosta conviene ancora essere diversa per vendere una diversità importante, una specialità in tante cose, oppure se integrarsi meglio. Quello che la Valle d'Aosta secondo me deve fare è però vendersi in maniera più unitaria, perché sono tante cose molto belle, ma per esempio io quando vado in Cina devo trovare sempre qualcosa di particolare, non posso dire ci sono delle belle montagne, no, devo trovare qualcosa di unico, di speciale. Normalmente si punta sulle due montagne più conosciute, il Cervino, il Monte Bianco, poi tutti dicono il Cervino in Italia, sì, metà e metà, perché c'è anche questo problema, per cui sì, la Valle d'Aosta ha un grande potenziale, stanno facendo molto a livello turistico, si stanno proprio organizzando. Il problema è che tutte queste cose avvengono in un momento di gravissima crisi economica. La Valle d'Aosta puntava molto sull'Italia, come i casinò vivono molto della clientela italiana, e di conseguenza bisogna un po' cambiare pelle, bisogna cercarsi nuovi mercati e soprattutto bisogna capire i nuovi mercati cosa vogliono da noi, perché non bisogna cambiare e vendere quello che si certo. pensa, ma quello che realmente loro apprezzerebbero. Ecco, quali possono essere potenzialmente i nuovi mercati? I russi, gli arabi, i cinesi, gli americani, che magari sono ancora ricchi e su cui spesso non si punta, però gli Stati Uniti sono una grande nazione. Ma nuovi mercati, questi sono sempre i mercati ormai, no? Sono certo. 10 anni che chiamiamo nuovi mercati, ma sono i mercati. Sì, noi abbiamo fatto una scelta che è l'Oriente, abbiamo le affiliazioni degli hotel che guardano molto gli Stati Uniti, abbiamo lavorato molto sulla Russia per la parte invernale, il russo viene in montagna solamente in inverno, non viene in estate preferisce andare al mare come anche gli italiani, e poi abbiamo guardato dei mercati di grande potenziale, che è il mercato turco, perché è un mercato particolare per i giocatori, il mercato brasiliano per il mercato del turismo, amano molto l'Italia, amano spostarsi, e in parte il mercato indiano, che però è un po' complesso da approcciare. Siccome questo è un progetto nuovo anche a livello europeo come concetto di resort, abbiamo individuato queste aree come le maggiori aree di maggiore interesse, e poi chiaramente mano a mano svilupperemo il resto. Anche l'Inghilterra e Londra è un crocevia importante, però è molto segmentato, è difficile da approcciare in una maniera. Ecco, in questi mercati proponete soprattutto la casa da gioco o l'insieme delle attività? Com'è? Oggi far marketing e vendere per noi è molto emozionante, ma è anche molto complesso, perché a dipendenza di dove si va noi vendiamo un prodotto diverso. Per esempio nel mercato arabo vendiamo l'hotel e la montagna, non vendiamo molto la casa da gioco perché non è molto compreso. Sul mercato orientale invece è molto più facile, si mette assieme l'albergo e la casa da gioco, e questo va abbastanza rapidamente. Agli americani invece vendiamo l'esperienza della montagna, l'esperienza dell'Italia, i cibi, i grandi vini della Val d'Aosta, che ha dei vini magari non tanto conosciuti, ma certo, di grande livello, e poi se proprio vogliono diamo anche vini piemontesi, ecco, se non è questo l'importante è attrarli nella nostra regione. È una cosa che noi cerchiamo di fare, come dicevo prima, non è di snaturare la Val d'Aosta, le cose molto belle, l'Italia anche. Un russo che viene da Mosca non ha per esempio l'aria buona. Cioè, indubbiamente, sono queste le cose che loro, se vengono... Soprattutto a Pechino, poi ancora di meno. Pechino è terribile. Ecco, Luca Frigerio, amministratore unico del Casinò di San Vincent, quali sono i programmi a medio termine, a medio lungo termine, diciamo, che sta impostando per la sua attività? Ma sicuramente aprire questi mercati è la cosa più urgente, anche perché noi abbiamo fatto degli investimenti grossi, quindi è venuto il momento di proprio lanciare tutto il resort. Dobbiamo anche lavorare però sull'organizzazione interna. Le case da gioco italiane hanno una storia gloriosa, ma come tutte le grandi aziende si portano anche tanti problemi, no? Quindi penso anche all'organizzazione del personale, penso, certo, a molte situazioni relative al costo anche che abbiamo nelle nostre strutture, purtroppo che non è più compatibile con quello che è il mercato in generale. E l'altra cosa che vorrei fare è cambiare la cultura, l'approccio al business anche attraverso l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani, perché c'è assolutamente, e voi avete anche bisogno, un codice etico all'interno, sì, della vostra attività, sì, quindi... Io sono stato il primo in Europa, quando lavoravo in un altro casinò, a fare questo tipo di percorso, ma il codice etico è semplicemente il ribaltamento di quelle che sono già le abitudini consolidate delle case da gioco da tantissimi anni. Le case da gioco storiche a livello internazionale hanno sempre gestito la clientela cercando di fare i meno danni possibili. Certo. Si tratta sempre di un casinò, quindi ci sono comunque dei rischi legati alla dipendenza da gioco, ci sono dei rischi legati alla microcriminalità. Certo. Rispetto al gioco di Stato è facilmente controllabile, o quantomeno è limitabile ed è gestibile. L'importante è che resti un gioco, cosa che ogni tanto è difficile, però insomma deve anche porsi dei limiti, porsi delle barriere e avere delle garanzie. Dopo tanti anni di questo lavoro è molto difficile comprendere quando non è più un gioco, quando è solo un gioco. Oggi ci sono degli strumenti nuovi, e del bene della discussione che si fa è che una persona che matura una dipendenza va anche curata, certo, cosa che invece la legge italiana fino a un minuto fa non prevedeva. Ecco. Grazie a Luca Frigerio anche di questo richiamo a considerare il gioco come un gioco. È giusto che magari ci siano anche dei luoghi dove si possa giocare con tutte le garanzie però del caso, e anche con un certo riparo contro una criminalità che approfitta di tutte le occasioni. Assolutamente. Grazie a Luca Frigerio, amministratore unico del Casinò di San Vincent, di essere stato con noi questa sera. Grazie anche a Peter Bescap in regia e Luca Cremonese in redazione, e buona domenica a tutti. Grazie.